Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ieri è iniziata a Torino la cosiddetta ostensione della Sindone che andrà avanti poi fino a maggio. La Sindone sappiamo tutti che cos'è, il lenzuolo che avrebbe ricoperto Gesù nel sepolcro ed è una delle reliquie più importanti di tutta la cristianità, esposta soltanto in straordinarie occasioni. In questa circostanza sono usciti diversi libri, vi voglio segnalare qualche titolo. Il primo è il libro di Andrea Tornielli, che è un vaticanista autorevole, scrive per il giornale. Il libro si intitola Sindone, inchiesta sul mistero, pubblicato da Gribaudi, 144 pagine, 7,50 euro. Questo libro, molto leggibile, molto agevole, comincia col descrivere fisicamente che cos'è la Sindone, questo telo appunto che molti venerano, come è fatto, quanto misura, come fu fabbricato, poi si inoltra nella descrizione di quello che rappresenta e quindi anche descrive tutte le tracce di macchie, di ferite che vi sono rimaste impresse e naturalmente parla delle complesse vicende storiche che portarono il telo a Torino. Tornielli riferisce anche delle tante polemiche sull'autenticità della Sindone, per concludere che non c'è nessun indizio che possa costituire una prova sulla sua scientifica assoluta certezza che si tratti di una reliquia autentica. Scrive infatti Tornielli: ci sono molti indizi che rimangono segni, talvolta piccoli, talvolta più consistenti, rimangono ipotesi, magari affascinanti agli occhi del credente, ma sempre soltanto ipotesi. Poi aggiunge Tornielli: quello che è certo è che fino ad oggi nessuno mai è stato in grado di spiegare compiutamente come quella misteriosa e affascinante immagine, così corrispondente fin nei minimi dettagli al racconto evangelico della passione di Cristo, si sia potuta formare. Una studiosa spesso citata dal libro di Tornielli è Barbara Frale, che qualche mese fa ha pubblicato con il Mulino La Sindone di Gesù Nazareno, 374 pagine, 28 euro. L'autrice è ricercatrice ufficiale dell'Archivio Segreto Vaticano, nonché studiosa assai reputata dei Templari, e già aveva pubblicato un libro, I Templari e la Sindone di Cristo, sempre con il Mulino, 252 pagine, 16 euro. Questo ultimo che vi ho citato è il libro nel quale la Frale illustra, partendo appunto dalle vicende della Sindone che originariamente fu posseduta dai Templari, illustra, dicevo, la scoperta più importante avvenuta sul tema negli ultimi anni, cioè alcune tracce di scrittura in latino, greco ed ebraico che furono trasmesse al tessuto, una scrittura che l'autrice esclude possa risalire appunto all'epoca dei Templari. Il primo volume invece, La Sindone di Gesù Nazareno, completa questo studio partendo proprio da questa scoperta che l'autrice peraltro riconosce onestamente essere merito di altri studiosi. Questi pochi caratteri possono contribuire a spiegare molto della vicenda umana di Gesù e dell'ambiente storico nel quale egli fu immerso. Naturalmente rimane il mistero o l'incertezza sulla reliquia e in particolare in questo caso sulle ragioni che portarono alla scomparsa di quelle scritte. La data di quei segni risalirebbe comunque al periodo tra il primo e il terzo secolo d.C. e potrebbe essere quella traccia una sorta di certificato di morte che reciterebbe: Gesù Nazareno trovato, forse che sobillava il popolo, messo a morte nell'anno 16 di Tiberio, sia deposto, oppure veniva rimossa all'ora nona, sia reso in chi esegue gli obblighi. E quindi questa scoperta e l'interpretazione che l'autrice ne fa contribuiscono ad aumentare il fascino di un oggetto che non può mancare di interessare anche chi non crede. Un ultimo titolo che vi segnalo è di Gian Maria Zaccone, che è il direttore scientifico del Museo della Sindone. Si intitola La Sindone, storia di un'immagine, pubblicato dalle Paoline, 306 pagine, 16 euro. Qui abbiamo una ricostruzione puntuale delle vicende del lenzuolo che prende le mosse dal dibattito sulle fattezze di Gesù, un dibattito che prese le mosse subito dopo il suo passaggio terreno. Particolare spazio viene dedicato nel libro di Zaccone alle peripezie delle reliquie più importanti di Cristo, spesso legate alla storia delle crociate appunto e alle vicende di Costantinopoli, dove a un certo punto la Sindone sarebbe riapparsa per poi arrivare attraverso la Grecia in Francia. Particolarmente interessante, dato il profilo dell'autore, è anche la descrizione della ricerca scientifica che fu effettuata nel 1988 col carbonio 14 per verificare l'età esatta del tessuto di lino della Sindone, un esame che allora fu presentato come quello definitivo per decidere appunto se la Sindone potesse o meno essere la reliquia originale. La ricerca ufficialmente, come ricorderete, attribuì la datazione del lino al XIII secolo, quindi facendo cadere, per così dire, l'autenticità. Ma molte polemiche sono seguite a quelle conclusioni e anche alcuni ripensamenti, come riconferma per esempio questa testimonianza che Zaccone presenta nel suo libro. Christopher Ramsey, attuale direttore dell'Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, uno dei laboratori in cui venne effettuata la radiodatazione della sindone nel 1988, pur dichiarandosi convinto dei risultati dell'88, ha recentemente affermato che esistono tante altre evidenze che suggeriscono a molti che la sindone sia più risalente di quanto i risultati dell'esame al radiocarbonio consentono di ritenere, e quindi è certo che sono necessarie delle ulteriori ricerche. È importante che da parte nostra si continui a verificare l'accuratezza degli esami al radiocarbonio come stiamo già facendo. È ugualmente importante che gli esperti valutino e reinterpretino alcuni aspetti delle altre evidenze. Soltanto facendo così sarà possibile arrivare a una storia coerente della sindone, che tiene conto e spiega tutte le informazioni scientifiche e storiche disponibili. Come si vede, nel sereno confronto esistono ampi spazi di dibattito, in ossequio al vero metodo scientifico. Un'altra reliquia spesso affiancata alla sindone è la cosiddetta sindone di Manoppello, che è una cittadina dell'Abruzzo, dove dal XVII secolo è custodito un telo che sarebbe quello nel quale la Veronica asciugò il volto di Gesù durante la Passione, un volto che corrisponderebbe esattamente a quello della sindone. Così almeno sostiene Saverio Gaeta, che è un giornalista esperto di cose religiose, nel libro L'enigma del volto di Gesù, l'avventurosa storia della sindone segreta, pubblicato da Rizzoli, 268 pagine, 18,50 euro. L'importanza di questa reliquia è stata confermata anche di recente da un breve ma significativo pellegrinaggio che ha compiuto a Manoppello nel 2006 il Papa Benedetto XVI. Anche questa di Gaeta è un'appassionante ricerca storica e iconografica sul volto di Gesù, che permette di ricostruire una vicenda rimasta misteriosa per molti secoli. In occasione dell'ostensione della sindone a Torino, o meglio al Castello della Venaria Reale, è stata inaugurata da pochi giorni la mostra Gesù, il corpo, il volto nell'arte, a cura di Timothy Verdon. La mostra sarà aperta fino al 1 agosto e nel periodo dell'ostensione della sindone sarà aperta tutti i giorni, anche il lunedì, quindi fino al 23 maggio. E come fa a capire il titolo, l'esposizione è dedicata a questo tema che ha dominato lo sviluppo dell'arte occidentale, quindi la presenza del corpo e del volto di Gesù Cristo nell'arte. Ma sentiamo da Marco Carminati una presentazione di questo appuntamento. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. Sì, in occasione dell'ostensione della sindone, Torino offre molti appuntamenti anche di carattere culturale, non solo religioso, uno dei quali ve lo segnalo volentieri. Si tratta della grande mostra allestita nelle scuderie juvariane del Castello della Venaria Reale, dedicata proprio al tema del corpo di Gesù. Noi siamo abituati naturalmente a visitare i musei e vedere l'iconografia religiosa con un taglio particolare. Questa mostra invece ci dà la possibilità di avvicinarci a questa iconografia, cioè l'iconografia di Cristo, con un atteggiamento un po' diverso. Infatti è una mostra che mette in risalto l'importanza che per i cristiani riveste la raffigurazione di Dio. E la mostra è divisa in varie sezioni e comincia proprio con una impressionante overture dedicata a una grande pala emiliana del 600, dove il corpo di Cristo è l'Eucaristia, cioè è il dono, che è diciamo uno dei messaggi centrali della fede cristiana. Noi naturalmente visitando i musei non ci avviciniamo con questa attitudine e con questa sensibilità. Poi la mostra offre tutta quanta la storia del corpo di Cristo, per cui c'è una parte tutta dedicata per esempio all'infanzia, alla storia dell'infanzia di Cristo, con dei bellissimi capolavori. Poi naturalmente ci avviciniamo alla vita pubblica, alla vita di Gesù adulto. Altro punto molto molto emozionante della mostra è quello dedicato ai momenti della Passione, dove il corpo di Cristo diventa un corpo dolente. Qui abbiamo l'acme, diciamo, raggiungiamo l'acme perché ci sono per esempio dei crocifissi scultorei bellissimi di Pollaiolo, di Donatello, e poi è stato prestato il bellissimo crocifisso di Santo Spirito, una delle opere giovanili di Michelangelo Buonarroti, che davvero vale un viaggio qui a Torino per essere ammirato in un contesto appunto così, così ben spiegato. E poi si prosegue con le fasi, diciamo così, della morte, dell'imbalsamazione di Cristo, che naturalmente sono il tema che si aggancia al tema principale, che è quello della sindone, che in questi giorni è uno dei momenti di maggior attrazione e interesse per la città di Torino. Ultimi arrivi. Vi segnalo tre titoli di genere diverso. Il primo è di Gaia Nugno, La orripilante storia del teschio di Goya, è pubblicato da Schirà, 54 pagine, 15 euro, e questo è un percorso insolito nella vita di questo grande pittore spagnolo. L'altro libro invece ci porta all'attualità ed è di Alfio Caruso, che è uno scrittore di cose di mafia. Il titolo è Milano ordina, uccidete Borsellino, l'estate che cambiò la nostra vita, è pubblicato da Longanesi, 256 pagine, 15 euro, un libro che vuole fare luce sulle ragioni che portarono all'omicidio del giudice di Palermo. E il terzo libro è un libro di narrativa americano, una scrittrice all'esordio, si intitola Mishnah Wolf, credetemi ci ho provato, è pubblicato da Fandango, 344 pagine, 18 euro, una storia adolescenziale di formazione che ci porta a Seattle, nel clima di una difficile integrazione al contrario, perché qui abbiamo una ragazza bianca, figlia di bianchi, e in particolare di un padre bianco che a tutti i costi vuole farsi considerare un nero e sposa quindi tutti gli aspetti della cultura afroamericana. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Rimaniamo a Torino ma cambiamo genere, parliamo di economia, parliamo di un grande economista torinese, Sergio Ricossa, di cui ricompaiono due libri importanti. Il primo titolo che vi presento è una delle testimonianze più importanti forse della produzione di questo grande economista liberale della nostra generazione, è uno dei libri suoi più fortunati, si intitola Maledetti economisti, le idiozie di una scienza inesistente, che torna nell'edizione di Rubbettini con la prefazione di Lorenzo Infantino. Questo è un libro a modo suo fantastico, perché, o fantascientifico meglio, perché ci porta nel 2450, l'anno nel quale si studia l'origine della scienza economica dopo una catastrofe che ha fatto sparire le più importanti testimonianze della civiltà passata. Da questo divertissement di Ricossa nasce un'analisi dell'evoluzione del pensiero economico attraverso una presentazione dei maggiori studiosi, da Adamo Smith a Piero Sraffa, seguita poi da una vera e propria pagella finale di questi economisti. La prosa molto godibile di Ricossa, molti ne ricorderanno gli interventi sui giornali italiani, rende attraente per tutti la lettura di questo libro, la cui attualità nasce anche dal forte bagno di umiltà che già 25 anni fa Ricossa raccomandava ai suoi colleghi. La scienza economica non esiste, diceva allora, e poi aggiungeva: un grande economista è un posseduto non dal demonio, posseduto da sé. L'avessero ascoltato, forse non ci sarebbero state tante crisi. Ma sentiamo su questo libro e sul contributo di Sergio Ricossa il parere del prefatore Lorenzo Infantino. Buongiorno a Lorenzo Infantino. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore Infantino, nella sua prefazione a questo libro di Ricossa lei parla di una sorta di controstoria dell'economia che scrive il grande economista di Torino. In che senso questa è una controstoria? Ma è una controstoria nel senso in cui solo Sergio Ricossa può scriverla. Sergio Ricossa ha dedicato più di 50 anni allo studio delle scienze sociali e dell'economia in particolare. Quindi ha una conoscenza straordinaria ed è dotato di una grandissima ironia e quindi ha potuto percorrere le vie meno frequentate dagli altri e quindi, anziché ripetere i luoghi comuni, ci ha narrato una storia, una controstoria per l'appunto, le cose che tutti gli altri economisti solitamente non ci dicono e quindi abbiamo la possibilità di misurarci con la teoria economica da un altro punto di vista, da un punto di vista singolare e quindi straordinario. E questo lo dice anche Ricossa e poi lo riprende lei, questa sottovalutare alcuni aspetti nelle loro narrazioni dell'economia fa sì che gli economisti spesso corrano il rischio di cadere nel ridicolo. In che senso? Beh, corrono il ridicolo come tutti gli uomini corrono sempre il rischio di cadere nel ridicolo, nel senso che quando le nostre pretese sono eccessive il risultato non può che essere fallimentare e quindi diveniamo ridicoli, perché se mettiamo a confronto le nostre pretese con i risultati conseguiti, a quel punto siamo dei cavalieri della Mancia e su di noi cade il ridicolo. Tutto ciò si verifica puntualmente nei casi in cui le nostre presunzioni diventano eccessive, le nostre ambizioni sono smisurate. E Ricossa quindi pone in evidenza come molti di questi economisti non volevano semplicemente essere degli scienziati sociali, ma pensavano di essere dei grandi riformatori, di poter rifare il mondo a loro immagine e somiglianza. E da questo punto di vista Ricossa ha perfettamente ragione che questi cavalieri della Mancia cadono nel ridicolo. E in questa loro ambizione, in questo loro orgoglio, uno dei peccati maggiori che hanno commesso è stato quello di ignorare certe pagine e certe figure, per esempio quella di Adam Smith. Beh sì, perché Adam Smith, diversamente da quello che si ritiene, non è il padre dell'economia politica come oggi la si pratica e la si intende. Adam Smith era uno scienziato sociale a tutto campo che non aveva minimamente l'idea di riformare il mondo. Cercava semplicemente di darci degli strumenti, e degli strumenti che sono molto sofisticati, per la comprensione dell'azione umana e quindi della vita sociale, cioè a dire della cooperazione sociale. La teoria che Adam Smith ha soprattutto utilizzato è quella delle conseguenze inintenzionali delle azioni umane intenzionali, quindi non è l'uomo con la sua presunzione che edifica il mondo, ma molti prodotti della civiltà sono la conseguenza del inintenzionale di azioni che noi finalizziamo ad altri scopi. Quindi l'ironia c'è già nella teoria di Adam Smith, e Ricossa fa bene a sottolineare tutto questo. Quindi il sottotitolo del libro di Ricossa parla dell'economia come di una scienza inesistente. La verità è che Ricossa non attribuisce uno statuto epistemologico forte all'economia politica, ma la ritiene una scienza fallibile, come è giusto che la ritenga, perché tutte le scienze sono parziali e fallibili. Questo libro di Ricossa è del 1996, quando dire queste cose era veramente un'eresia. Oggi forse lo è un po' meno, eppure il libro risulta molto attuale ancora. Il libro è sempre attuale, soprattutto nel nostro paese, in cui l'economia viene esercitata semplicemente con grafici e con sistemi di equazioni. E credo che il mondo occidentale, insomma, paghi un prezzo molto salato a questa schematizzazione. E quindi in questi anni che intercorrono dalla prima pubblicazione del libro di Ricossa questa tendenza si è accentuata, e il libro di Ricossa è una salutare lettura, un ammonimento a uscire da questi schemi semplicistici e a misurarsi con la complessità della realtà sociale. Non dobbiamo mai dimenticare che le nostre teorie, come diceva un grande filosofo del passato ben conosciuto da Sergio Ricossa, che le nostre teorie sono miseri schemi con i quali cerchiamo di accostarci alla realtà. Grazie a Lorenzo Infantino. Buona domenica. Buona domenica agli ascoltatori. Il secondo libro di Sergio Ricossa è Straborghese, pubblicato dalle edizioni dell'Istituto Bruno Leoni, IBL Libri, con la prefazione di Alberto Mingardi, 178 pagine, 20 euro. Questo libro è precedente, del 1980, ed è un'appassionata difesa della borghesia, di questo ceto sociale così criticato ma così decisivo per lo sviluppo dell'epoca moderna. Ci sono alcune figure che esemplificano che cosa significhi essere borghese, che cosa significhi non essere borghese. Per esempio, a sorpresa, scopriamo che, secondo Ricossa, Garibaldi fu un perfetto esempio di grande borghese, mentre un perfetto esempio di non borghese fu Napoleone. C'è un'analisi sui pregiudizi che accompagnano la borghesia, ma anche un'analisi delle sue caratteristiche più importanti, delle sue virtù, dei suoi riferimenti culturali, specialmente nell'economia. Una spiegazione di che cosa lo distingua dai suoi avversari principali, che sono soprattutto i pianificatori, e sul modo in cui si può difendere. La categoria della borghesia si associa fatalmente al concetto di denaro, e infatti un borghese troviamo nella copertina del libro che adesso vi presento, Il cambiavalute di Quentin Metsys. Il libro si intitola L'ascesa e declino del denaro, una storia finanziaria del mondo, di Niall Ferguson, che è uno storico scozzese. Il libro è pubblicato da Mondadori, 306 pagine, 30 euro, ed è tradotto da Paolo Canton. Questo libro è stato pubblicato proprio all'indomani dell'inizio della crisi, quindi alla fine del 2008, e in qualche modo si può considerare un atto coraggioso, perché è anche un atto di fiducia e una difesa della finanza. Infatti, secondo l'autore, la finanza è uno strumento e una risorsa vitale per il progresso dell'umanità. La finanza, spiega, è stato lo strumento importante per supportare, per aiutare lo sviluppo economico fin dal XIII secolo. E come è stato notato anche da alcune recensioni su alcuni giornali stranieri, questo libro ha sfatto un equivoco importante, cioè quello che l'aspetto finanziario rappresenti una sorta di aberrazione del capitalismo. In realtà non c'è un capitalismo finanziario contrapposto a un capitalismo, per così dire, buono. C'è il capitalismo che non avrebbe potuto svilupparsi se non ci fosse stata la finanza. E infatti l'intermediazione finanziaria, scrive nell'ultimo capitolo l'autore, permette una più efficiente allocazione delle risorse rispetto per esempio al feudalesimo o alla pianificazione centralizzata. Dall'antica Mesopotamia alla Cina dei giorni nostri, l'ascesa della moneta è stata una delle forze determinanti del progresso umano, un complesso processo di innovazione, intermediazione e integrazione che ha avuto un'importanza paragonabile allo sviluppo della scienza e alla diffusione del diritto per permettere all'uomo di sottrarsi al travaglio dell'agricoltura di sussistenza e alla miseria della trappola malthusiana. Insomma, anche questo un libro abbastanza controcorrente, utile per capire non solo come siamo arrivati alla situazione attuale, ma come se ne potrà anche uscire. E a questo punto il confettino. Troviamo qui un'altra creatura che difficilmente riusciva a integrarsi proprio per l'equivoco sul colore della propria immagine. Non è un nero, ma è Calimero, che troviamo in tre libri pubblicato da Gallucci: I sogni di Calimero, In classe con Calimero e In viaggio con Calimero. Ogni libro costa 3,90 euro. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Pietro Accorti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica al quale potete riascoltare le nostre trasmissioni, www.radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.